Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma mi piacerebbe essere ricordato intanto come uno che ha vinto tanto, e quindi ancora ho vinto un po', però bisogna ancora lavorare in quella direzione lì. E poi mi piacerebbe essere ricordato come uno alla fine che dava delle emozioni, che faceva emozionare quando c'era una sua gara, ecco. Champions sì, finché volete, ma oggi 23 ottobre e ogni 23 ottobre un bacio al cielo per il SIC. Sì, c'è aria di rumba, ma niente paura come canta Ligabue. Diciamo che ci troviamo meglio che in campionato, forse perché la soglia dell'attenzione dei nostri giocatori è superiore quando giocano in Champions rispetto a gran parte delle partite del campionato. Il pasticcio, Robinho in agguato, lo attacca Piquet, prende il pallone Robinho, arriva Kaká a sostegno, Kaká in aria, ancora dentro, Robinho, 3-3, Milan in vantaggio. Niente paura. Guarda, ma quello che ha giocato ieri sera a San Siro era il Barcellona o il Lecce? No, era il Barça, ho capito che ti riferisci alla maglietta, che in effetti non è... Ma anche quella dell'anno scorso, la seconda maglia dell'anno scorso era drammatica, era dell'Anas, che... Icecat, Autostar, fra poco c'è il traffico, amici che state qui a ascoltare, aspettando il traffico. Perché il Barça non ha mai... Quando viene a San Siro dal peggio del repertorio cromatico, complesso, sì, di inferiorità nei confronti del Milan, no, queste magliette piacciono solo a Franco Piantanida, autore di questo programma, sì. Fabio Cantadori, il capitano, no, non gli piace. Non gli piace, regia, a me non piace. Piace a qualche però minore. A me piace Napoli camouflage. Anche a me. A me piace quella maglia lì che... Noi abbiamo gusto, siamo oltre. Una cosa sul Sic, la passione, no, c'è ancora la passione, si sente? No, senti, non molla, non farmi venire le lacrime agli occhi, perché poi faccio fatica a parlare. No, ma vivere le proprie passioni, poi è chiaro, okay, che insomma, magari se fai un lavoro meno pericoloso rischi di meno, ma vivere le proprie passioni. Basta, senti, fine. Ma 800240024 è il vostro numero verde per parlare con me, ovviamente con Monsieur Pierluigi Pardo. Ma Kaká è ancora un giocatore, quindi, o è... non ti dico uomo per una notte. Sai, ieri sera a San Siro un po' di persone mi hanno detto, digli la Genta, digli la Genta. No, aspetta. Ma è ancora un giocatore di calcio totale o è un uomo da una notte ogni tanto? No, innanzitutto un uomo da una notte ogni tanto può sembrare equivoco. No, è un uomo... ieri ha fatto una gran partita, per quello che può dare oggi. Il punto è che uno deve... chiamiamolo Gagà. Chiamiamolo Sasà, chiamiamolo Lala, cioè il paragone col passato rischia di essere sempre in deficit, perché quel Kaká lì probabilmente non tornerà più. Però il Kaká che abbiamo visto ieri è un giocatore che fa la differenza, è un giocatore che può dare una mezz'ora di qualità, comunque sta tornando da un infortunio, e quindi che ti devo dire? Io ieri non me l'aspettavo fino in fondo, penso che sia un bel punto di partenza, e penso che insomma, se i giocatori bolliti sono questi, allora sì, vive i giocatori bolliti, no? I giocatori bolliti, però quello che dico io è, allora chiariamo, io mi aspetto un Kaká così, un Kaká che può essere così, però una volta ogni tanto, non si può chiedere a Kaká continuità. È chiaro che i suoi lampi di classe e magari Balotelli, il numero 45 quando, sì, quando si riprende dall'infortunio, è chiaro che la suggestione è forte, anche se poi arriva Minoraiola con la pompa della benzina e incendia la notte. Sì, tanto no? Così perché tanto per non così farsi per mancare dire. Nulla, ecco, sì. Esatto. Ma no, io ti dico che secondo me ha ragione, nella sintesi di Galliani c'è un punto molto interessante, cioè comunque quando lui parla della sfera di attenzione, della soglia di attenzione della squadra che è più bassa in campionato e che è più alta in Champions League, dice una cosa vera che però è un po' inquietante, perché le grandi squadre dovrebbero essere in grado di avere la stessa adrenalina sempre, visto che poi la Champions non la fai se non arrivi fra le prime tre. Com'è la storia di Balotelli? Sentiamo. Credo che solo lui può sopportare queste cose. Un complimento che gli faccio pubblicamente, perché è veramente, io non so se avrei sopportato io proprio queste cose qui, però come l'ho detto prima, purtroppo bisogna accettarle, uno può chiedere, l'ho detto 2 anni fa mi sembra, parliamo di altre cose, non parliamo sempre di Mario. Nel prima partita abbiamo sentito Mino Raiola che ha lanciato un allarme, c'è troppa pressione intorno a Balotelli, la pensa anche lei così? La penso così sicuramente, ma Mino Raiola è un furbacchione. L'Italia non sarà la fine della sua carriera, lo sappiamo, l'ha detta Agnelli ultimamente, è così, però abbiamo ancora 3 anni, 4 anni col Milan davanti, non vogliamo pensare a questo e non vorrei pensare di dover lasciare l'Italia per questa ragione. Poi ovviamente parliamo anche del Napoli, parliamo della Juventus che gioca stasera e magari ne prende 8 da Real Madrid, anche se perché? Con... Perché ne deve prendere? Ma perché la Juventus è una squadra con qualche problema. Sì, è una provocazione a freddo, perché magari ne prende 8 il Real, adesso che... Secondo me è più facile ne prendere 8 la Juventus. Il Real è favorito, ma attenzione, se la Juve mette l'intensità... Guarda chi c'è oltre la porta. C'è un pettinatissimo Cruciani, eh? Vuoi dire qualcosa? Vieni Cruciani, vieni. Dai un messaggio alla nazione, dai, un messaggio di pacatezza. Al limite lancia il traffico. Vieni a lanciare il traffico, dai, traffico. Dai, dica, vai, vieni qui. Però veloce, Cruciani, tempi radiofonici. Traffico. Tutti convocati. Visto che cameo? No, eh? mi devo esercitare, devo riuscire a fare traffico. Ma quello era Cruciani, senti, davvero? Sì, no, sembrava un maniaco e quindi era Cruciani, ecco, quindi è sorriso. 800 24 00 24 è il numero verde, vi aspettiamo ovviamente come sempre, come ogni numerosi, siamo col bigliettino, bello. Serviamo il numero 86, la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Sì, ti ricordi ieri che un ascoltatore da Napoli ha scritto o femminile Higuain ha giocato a stretti denti, ha fatto l'uomo, non voglio fare professione di macismo. Però voglio parlare di calcio. Guarda caso, Higuain gioca e Napoli vince. Ma il Napoli ha vinto, ha giocato una bella partita che io ho visto soltanto stanotte. Sì. Ma Lori è la tua fidanzata, Lori da Milano? No, perché? Pardo rifinitore, Cravero finalizzatore, che telecronaca, grazie. Anche magari perché in molti frangenti la noia prevaleva. Io, ovviamente Pardo ha fatto raccontato Milan-Barsa. No, ma il punto secondo me della partita di ieri sera è che poi torniamo al solito discorso del tiki-taka del Barsa, che delle volte è anche un po' noioso, nel senso che comunque quando la palla ce l'hanno sempre loro per 20 minuti e tu sei là dietro e non esci mai, e tutta una serie di passaggi abbastanza lenti, diventa ipnotico, diventa quasi da narcolessia, ecco, diciamo. Quindi lo dicevo ieri pomeriggio, non è sempre la squadra più divertente, anzi delle volte commentare il Barcellona è abbastanza noioso, detto senza essere blasfemi. Per quanto riguarda invece il discorso del Napoli, sì, ha stretti denti Higuain, ma insomma ieri secondo me è una grande vittoria che dimostra che questa squadra è comunque sulla giusta strada, perché ieri comunque per la situazione che si era creata nel girone andare a vincere a Marsiglia non era affatto scontato. Adesso non è ancora risolto nulla, perché adesso è un girone a tre, onestamente si riparte da capo. Hai fatto un'impresa col Dortmund, la sconfitta con l'Arsenal, la vittoria del Dortmund a Londra. Si ricomincia, però Marsiglia al San Paolo è chiaro che poi c'è. No, potresti avere all'ultimo. Ieri non è stato un buon risultato quello di Londra, perché in realtà sarebbe stato meglio, ovviamente ragionando così sui massimi sistemi, se l'Arsenal avesse vinto, per poter arrivare magari all'ultima giornata in casa con l'Arsenal magari già qualificato, cosa che a questo punto sarà abbastanza difficile, sarà uno spareggio. Io saluto con grande affetto un ascoltatore che scrive la verità: ieri sera abbiamo avuto la conferma che tu, Carlo, di calcio non capisci molto, ma soprattutto non capisci il gioco con tutte le sue variabili, ma nel 3-7 sono fortissimo però. Ma il 3-7 tra l'altro anche lo scopone, un giorno parleremo del concetto di spariglio, concetto filosofico, e soprattutto sono bravissimo nel nascondino sport olimpico a Tokyo in prova. Naturalmente io chiedo a un mio amico che è Filippo Galli, grande, ciao Phil, di difendermi. Ciao Filippo, tutto bene? Benissimo. Senti, ma allora dico una cosa che mi farà fare bella figura: il Milan ieri sera è stato bravissimo ad imbruttire la partita con il Barcellona, secondo me. Beh, è stato bravo nella fase difensiva, è stato molto bravo a chiudere quasi tutte le linee di passaggio, ha concesso davvero poco al Barcellona, che ha fatto la partita e non è riuscito quasi mai, a dire la verità l'ha fatto 3-4 volte con maestria a trovare l'imbucata giusta per i propri avanti, però direi che insomma era questa la partita che il Milan aveva preparato, so che Allegri l'aveva preparata così, e quindi si è riusciti a fare questa partita che al momento credo ad oggi sia l'unica partita che ti permette di magari di ottenere un risultato positivo con questo Barcellona. Ecco, ma l'unica strada per fermare il Barça è quella che ha fatto Hiddink, per esempio, nella famosa semifinale col Chelsea, poi col gol all'ultimo minuto di Iniesta, le tante polemiche arbitrali, quella che hanno fatto alcune squadre in questi anni, cioè essenzialmente fare catenaccio e contropiede. Poi catenaccio è una brutta parola, sì, beh, possiamo fare catenaccio, però ecco, insomma, a me piace catenaccio. Vuol dire svidire, no, a me no. Però sì, vuol dire svidire un po' il lavoro difensivo che si è fatto, di grande applicazione. Probabilmente ad oggi è l'unico modo, perché se vai ad affrontarli a viso aperto ti castigano. Guarda, io ho l'esperienza del pomeriggio di ieri. Appunto, con Filippo, i ragazzi, 2-6, in questo preview di Champions. Abbiamo perso 2-6 e abbiamo cercato di affrontarli a viso aperto, andando anche in vantaggio, tra l'altro, anche noi, però ti accorgi che poi come molli dal punto di vista dell'attenzione e poi dal punto di vista atletico, loro poi sembrano giocare un altro sport, perché credo che questo comunque arrivi da lontano, no? Loro arrivano a questa età, under 19, dopo un lungo processo di formazione che dura 7-8 anni, con uniformità e continuità di principi e con una voglia di proporre calcio, cosa che invece qui da noi in Italia in generale non è così. Noi stiamo cercando di cambiare al Milan, ovviamente sarà un percorso lungo, per dire, noi in Italia generalmente facciamo giocare i difensori a centrocampo, loro fanno giocare centrocampisti in difesa. Questo spiega. Senti, ci credi a Kakà? Tanto per voglio capire. No, Riccardino, io prima ho detto, Filippo, io prima ho detto a Pierluigi, non so se è un po' scandalizzato, però ho detto, è ancora un giocatore per tutta la stagione o un uomo da una notte ogni tanto? Beh, questo non lo so, questo sarà tempo a dirlo, però ieri sera ha fatto una prestazione almeno per un tempo intensa, importante, di grande dedizione. Anche lui è arrivato a fare il quinto di difesa, insomma, voglio dire, quindi si è messo a disposizione completa della causa del collettivo, della squadra. Questo ha dato veramente il senso e la misura di questa persona, di questo giocatore, che probabilmente oggi magari non riesce più a essere così illuminante nel corso dei 90 minuti, però ha una classe che altri giocatori non hanno. Senti, ma la Juventus secondo te fa bene a coprirsi questa sera? 4-3-1-2, a me non sembra una brutta idea. Prima parlavamo di catenaccio, parola che a voi non piace, a me sì, è chiaro che lo coniugo in chiave moderna, però al di là del sistema di gioco, Carlo, poi dipende anche come si interpreta, no? Perché se vai lì e poi giochi 4-4-2, sì. Però fai delle linee molto strette nella tua metà campo difensiva, è chiaro che è un'interpretazione difensiva del sistema di gioco, quindi non lo so, io credo che sarà importante capire, sarà un compito dell'allenatore capire che tipo di partita si svilupperà lì al Bernabeu, e io credo che il Real Madrid vorrà fare la partita e cercherà di Ma appunto il tuo numero 8 di una volta, secondo te cosa si inventa, qualcosa di diverso oppure no? Ovviamente Carlo, quello che si stava davanti no, col numero 8. Io non lo so, io credo che lui abbia già conosca anche così tanta esperienza a questi livelli, che avrà già una partita nella sua testa, poi con una squadra che ha a disposizione, io credo che sarà una partita prettamente offensiva, prettamente sulla conduzione del gioco, e quindi cercherà di mettere la Juventus alle strette, così credo che almeno questo sarà l'intento di Carlo e del Real, e poi bisogna vedere come saprà reagire, difendere e magari ripartire la Juventus. Ma tecnicamente quanta distanza c'è? Nel senso che poi io qua guardo le formazioni, vabbè, Casillas, Buffon, due grandi portieri, tutti e due un po' discussi ultimamente, ma grandissimi. Difesa 4, Arbeloa, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, oppure Caceres, Barzagli, Bonucci, Chiellini, siamo lì, no? Sì. A me piace un po' di più quella del Real, devo essere sincero, anche se la Juventus ha dimostrato in questi ultimi anni di avere grande solidità difensiva, perché ha sempre preso pochi gol, però individualmente forse mi sembra ad oggi migliore quella del Real. Cioè, la differenza alla fine è Cristiano? Possiamo dire questo? La differenza alla fine la fanno lì davanti, e non solo lui, dai, c'è tutta una serie di giocatori, di meccanismi al Real Madrid, giocare a Madrid, al Bernabeu, è vero che sono tutti giocatori di esperienza, quelli della Juventus, però ha sempre, se non toglie qualcosa ai giocatori della Juve, dà sicuramente qualcosa di più a quelli del Real. Giocare al Bernabeu, Filippo, davanti al loro pubblico. Io voglio chiudere con te con una cosa, tornando al Milan, certo che così, volendo sognare, volendo emozionarsi un po', il Kakà di ieri sera è il numero 45 quando sarà in condizione, non lo nomino più, no Pierluigi, è il numero 45, cioè voglio dire, sono qualcosa di, sono una pillola di buon umore per un Milan un sì, po' depresso. Sì, direi di sì, voglio dire, 45 giocatori che può fare la differenza, ovviamente di continuità, di allenarsi per poi poter dimostrare di riuscire a fare questa differenza. Ecco, adesso prima di lasciarci voglio che faccia l'imitazione di Fabio Cappella. Ah, non parlo con voi altri. Babum, dai linee, gai. Va bene, salutiamo, Mizzo, l'ho sentito 20 minuti fa, credo sia a Pantelleria, credo. Cosa ti ha detto? Ci saluta, ma non posso, sto uscendo. Va bene. Va bene, ciao Filippo, ciao. Chiedo scusa, ci sono dei momenti che mi scordo di essere in diretta nazionale. Ti scordi di essere Luigi Pardo? Le voglio bene, ecco, nei limiti ovviamente del rapporto professionale. Bene, ci ricordano che solo l'Inter ha battuto e cancellato il Barcellona, ci dicono, questo ma qui quando? Inter-Barça semifinale. Non ricordo. Vedi che non sai giocare, il sette bello glielo dovevi lasciare, era più importante sparigliare. Però abbiamo fatto un punto. E loro ne hanno fatti due, con le due scope finali. Vedi che non sai giocare, quando non si è di mano, si deve sparigliare, ti distrae in continuazione. No, non è vero, sono concentrato. No, non si gioca così. Il concetto di spariglio è un concetto filosofico, tecnico dello scopo scientifico, fondamentale, no? Non ti vedo appassionato da questo tema. Io farei tutta la puntata sullo spariglio. Va bene, se vado io. Perché devi capire se sei di mano o se non sei di mano. Ma la Juventus come può sparigliare stasera al Bernabeu? Nel deserto. No, come può sparigliare la Juventus stasera al Bernabeu? Stasera la Juve deve fare una partita di enorme intenzità. Deve fare una partita come quella. Ma non ce l'ha l'intensità. Non vedi che non ce l'ha più. Allora, il Milan adesso ricomincia a cantare niente paura. Il Milan prima di ieri sera ti aspettavi che avrebbe fatto comunque questa partita? No, perché come ha detto Galliani ci sono le motivazioni, c'è la forza dell'avversario, c'è la reazione imponderabile che le squadre hanno alla suggestione di una partita come quella con il Barça ieri e come quella con il Real di oggi. Per cui io a questo punto, se mi provochi, ti dico che sono quasi ottimista, nel senso che penso che il Real sia più forte, gioca in casa, ma che la Juve se riesce a mettere sul piatto l'intensità che si è vista nei giorni migliori di questi due anni, secondo me può fare partita, può fare prestazione e può anche portarla a casa. 3-1 per Carletto. Vabbè, vedremo. Io saluto tutti quelli che scrivono messaggi molto pallosi. 800 24 00 24, se volete essere seri e parlare con noi. Avete il coraggio? Vi aspettiamo qui, dopo la borsa. Tutti convocati. Penso che necesito un poco más de continuidad, pero ahí bueno, seguir demostrando mis condiciones, pero bueno, espero seguir así, aprovechar estos minutos que me da el míster, así que bueno, contento por el triunfo. Non ho capito niente di quello che ha detto Zapata, ma d'altra parte io non sapevo neanche chi fosse. Vuole mostrare la sua condizione per il mister, ringrazia questo pubblico meraviglioso. Ci sono due tifosi della Fiorentina, voglio leggere questi due messaggi perché fanno abbastanza ridere, perché c'è uno che ci scrive: vai C7, fagli altre 4 ova, ecco. Luca. E invece l'altro, che è più sottile, dice: la tifoso viola, spero che la Juve vinca, così la sconfitta a Firenze avrà più valore. Questo è un po' contorta, Beh, non è la proprietà transitiva, cioè come contorto, se la Fiorentina batte la Juve, batte il Real, la Fiorentina batte il Real. Permettimi, dopo tanti mesi, di salutare un signore che si chiama Marcello, che ogni volta non ha niente di meglio da fare che mettersi a scrivere durante la trasmissione. Io esco dalla trasmissione e aspetto la mail di Marcello, che ovviamente ne dice tutti i colori. Questa la voglio leggere: dal momento che ora deve scendere a patti con Equitalia, quel codardo con la coda tra le gambe ha chiesto scusa per il gesto dell'ombrello. Che grande uomo, sto aspettando di sentire la cosa che ti farà fare bella figura. Allora, Dieghito ha fatto la cazzata, ha chiesto scusa, ha fatto una brutta figura, perché bisogna dire le cose come stanno, punto e basta. Gesto. Beh, poi abbiamo avuto l'altra sera anche l'avvocato che ha parlato di programma satirico, onestamente. No, satira non ci sta. Ecco, ha fatto la cazzata anche se è il mio idolo assoluto. Che tempo che fa, che è un programma di enorme successo, insomma, tutto è meno che satirico. Però, insomma, abbiamo parlato per giorni di Maradona. No, no, vai, io volevo solo approfittare per salutare Marcello. Aspetto la tua mail dopo. Parliamo di Marcello. Perché sennò mi sento triste. Andrea Verona, buongiorno. 800240024, numero verde, siamo qui. Ciao Carlo. Ciao. Io mi è venuto, sono quasi sempre d'accordo con quello che sento che dici, però questa volta non sono molto d'accordo su Kakà, perché è vero che probabilmente non tornerà più quello che era prima, però se stiamo santificando Totti, che ha 37 anni, che sta giocando in quel modo lì, non potrebbe essere che magari con la fiducia dell'ambiente, recuperando fisicamente, possa tornare ad essere guarda, io adesso passo la palla a Pardo, che l'ha visto ieri sera giocare meravigliosamente, ma quello che faccio io è un discorso fisico. Totti e Kakà sono due giocatori diversi. Kakà era immenso, era pallone d'oro quando aveva l'esplosività fisica per andare sempre in verticale, perché la cosa mostruosa di Kakà era questa. No, ma non devi fare il paragone. Totti non è come se, Totti. Tu sei con tua moglie, stai bene, e poi ti ricordi che a 18 anni avevi una californiana meravigliosa, hai passato 3 mesi da sogno, che è un altro sport. Io penso però che il giocatore che abbiamo visto ieri sia un buon giocatore, e la cosa che mi ha colpito di più è stato il sacrificio che ha dato alla squadra, perché tornato all'infortunio, teoricamente con 60 minuti soltanto di autonomia, ha fatto una partita pazzesca per l'intensità, il sacrificio, ha fatto il terzino, come diceva Filippo Galli, nei momenti di maggiore difficoltà. Pier Riccardino è uno con una testa superiore, cioè è uno che ha un'intelligenza intanto superiore. Ha recuperato la testa superiore di un giocatore così, ed è bello per il Milan averlo dalla propria parte. Poi, insomma, immagino che sia al 50%, perché comunque tornava dall'infortunio, perché comunque viene da anni complicati. Insomma, la partita di ieri sera, io penso che se i tifosi del Milan non sorridono oggi dopo la partita di Kakà di ieri sera, quando lo fanno? Cioè, mi sembra veramente... Ma secondo te tecnicamente può reinventarsi? Cioè può diventare un giocatore diverso ed essere comunque comunque influente? Lui non è mai stato più quel tipo di giocatore, quindi quei picchi lì non è che li ha fatti adesso, li ha fatti 6 anni fa. Secondo me è molto complicato, però appunto bisogna diverticarsi, secondo me, del paragone. Bisogna far finta che si chiami Lala, Sasà, Gagà, come dicevo prima, e può diventare un giocatore molto importante, di enorme intelligenza, di grande spirito di sacrificio. Ieri sera giustamente Galliani sottolineava che comunque ha fatto dei sacrifici per tornare al Milan, sacrifici ovviamente relativi, non sono i sacrifici che fanno i poveri cristi che si svegliano tutte le mattine per andare a lavorare in ufficio o in fabbrica, ovviamente, però insomma comunque ha rinunciato a dei soldi, ha rinunciato a delle opportunità perché aveva voglia di rimettersi in pericolo. Un giocatore di calcio che cosa deve fare? Cioè, non ho capito, andare in fondere la mattina alle 6, cioè ha fatto dei grandi sacrifici, hai usato la parola giusta, sono grandi sacrifici. Ha voluto fortemente il Milan, ha voluto fortemente il Milan, e nella partita di ieri io questo spirito di sacrificio, questa voglia di essere protagonista, di dare tutto se stesso per la squadra, l'ho vista. Poi che non sia il giocatore del 2007, questo è poco ma sicuro, però non è neanche un brocco a vedere la partita di ieri. Cioè la palla che dà Robinho per il gol del 1-0 è una palla da Kakà a 5 stelle, no? No? Come no? Allora, ultime da Madrid, potrebbe essere 4-3-3, siamo al giochino dei numeri che io detesto. Sì. 4-3-3 per la Juventus, Bonucci in panchina, Ogbonna in campo, Marchisio con Llorente e Tevez in attacco. Bah. Edoardo Alessandria, buongiorno. Sì, ciao. Io volevo intervenire appunto per controbattere, comunque sono un juventino, contro coloro che dicono che comunque la Juventus è una squadra in profonda crisi. Secondo me la Juventus arriva da 2 anni grandissimi, che forse non era neanche nel... Edoardo, posso chiederti una cosa? Secondo te Buffon è un giocatore finito, è un giocatore sul viale del tramonto, è un giocatore agli sgoccioli della Buffon carriera? È stato un grande portiere, purtroppo adesso l'età ovviamente c'è, si vede, in certe situazioni si è dimostrato incerto, e questo non si può negare. Speriamo che da adesso in avanti riesca ad essere il Buffon, anzi sicuramente stasera dovrà essere il Buffon dei tempi migliori. Io sono fiducioso nella partita di stasera, perché secondo me comunque la Juve, giustamente come avete detto prima, se la mette sotto il punto di vista dell'intensità, ha una squadra comunque forse davanti, il Real rimane più forte, però ha un centrocampo sicuramente forte, tanto quanto il Real, ha una difesa che si è dimostrata molto forte, purtroppo purtroppo non dobbiamo tener conto della partita di domenica, che è stata una cosa veramente che penso che non si veda più nei prossimi anni, una partita del genere. Però io sono fiducioso in stasera, certo se la mette sotto il punto di vista dell'intensità. Una Juve arrendista, certo, come si è vista in certe situazioni quest'anno, può prendere 3-4 gol da Real Madrid. Una Juve invece propositiva e sicura nei suoi mezzi, secondo me può mettere in crisi Real e può portare a casa la partita. E se mi consenti, è statisticamente più probabile che questo tipo di intensità e di furia agonistica, esattamente come è successo ieri al Milan contro il Barcellona, tu la possa vedere in una grande partita, perché stasera no, sono quelle famose partite che non hanno bisogno di essere caricate dagli allenatori, perché l'intensità è enorme, l'adrenalina è enorme, la voglia dei giocatori è enorme. Quindi sì, c'è anche un problema che la Juventus deve fare il risultato, perché per come si è messo il girone, cioè, la Juve sperava di arrivare lì con i suoi 6 punti in classifica a giocarsi una notte di festa al Bernabeu, la classica partita in cui hai tanto da guadagnare e pochissimo da perdere. Invece non è così. Ma su Buffon, Pier, gli anni passano per tutti, siamo d'accordo, però se l'anno scorso gli arrivavano 3 tiri a partita, quest'anno ne arrivano 9. Sì, è anche normale che per un portiere della sua età sia un po' più faticoso. Ma sai che non è neanche detto, perché poi in realtà spesso quando arrivano i portieri ti dicono che una delle cose più difficili è proprio riuscire a mantenere la concentrazione quando sei poco impegnato. Quindi no, io credo che Buffon sia in calo, però ci può smentire. Insomma, 3-4 anni fa Totti sembrava in calo e guarda che giocatore è diventato. Quindi è sicuramente un momento negativo, bisognerà capire se troverà dentro di sé la palla di vetro. Io non ce l'ho, sinceramente. Bisognerà capire se troverà dentro di sé la forza, la serenità per potersi riproporre a certi livelli. Sicuramente adesso è in calo, ma lo sa pure lui. Non penso che penso che sia lui il primo in questo momento. Sono convinto che sia uno dei pochi portieri al mondo a mettere ancora paura agli attaccanti con il suo carisma. Assolutamente, ma non ci sono dubbi. Insomma, non è, stiamo parlando di un monumento assoluto. Poi in un momento di difficoltà come questo va sottolineato, perché altrimenti si perde di credibilità. Però insomma, l'augurio è che possa ritrovare, come è successo in alcuni casi ad alcuni giocatori, l'esplosività. E poi va pure detto che insomma il ruolo del portiere è un ruolo nel quale spesso si riesce a essere molto longevi. Il Van der Sar visto a Manchester è stato nettamente migliore del Van der Sar visto alla Juve, quindi ci voleva poco. Dida ha vissuto delle fasi molto positive, poi delle fasi molto negative. Giulio Cesar era straordinario, poi ha avuto un calo, poi è risorto. Quindi io, prima di dare la parola fine alla carriera di Buffon, ecco qui adesso ci scrive Emilio che Zoff a 36 anni venne criticato col Mondiale 78 e poi nell'82 dicevano che non ci vedeva più, no? Perché prese quei gol contro Brasile e Olanda. Però insomma, quindi tutto è possibile. Il calo è evidente, insomma, e secondo me censurarlo è sbagliato. Il calo c'è. Sentiamo Conte prima di questo Real Juve. Del Real abbiamo grandissimo rispetto, perché è una squadra molto molto forte. Non dobbiamo avere paura, perché paura non si ha di niente, di nessuno, quando si lavora e si è consci di aver fatto sempre il proprio dovere. Abbiamo grandissimo rispetto perché sappiamo di affrontare una tale candidata alla vittoria, una superpotenza calcistica, punto. Però andremo in campo consci degli aspetti nostri positivi, consci anche delle cose che dobbiamo migliorare. Questo Conte, c'è chi dice che uno dei problemi della Juventus sia proprio lui e il suo rapporto con i giocatori, e io sono quasi di quest'idea. Ma io credo che Conte non possa essere il problema in assoluto, perché questa Juve l'ha formata lui col suo imprinting. Detto questo, sicuramente rispetto alle prime due stagioni qualcosa che non va c'è, e l'abbiamo sottolineato prima ancora di Firenze, che c'era un po' di strano nervosismo da parte di Conte, quello sfogo sulla cessione di Matri, la querelle sulla sostituzione di Pirlo, che ricordiamocelo è un monumento del calcio italiano, è un monumento della Juve per quello che ha fatto negli ultimi due anni abbondanti. Per cui mi sembra che quest'anno insomma Conte abbia cominciato la stagione con un livello di rabbia e di nervosismo superiore al passato. Sì. Secondo me, rimango convinto, è una scelta studiata per alzare il livello di intensità e di concentrazione della truppa. Vedremo, poi è chiaro che l'altro giorno non è che non è successo niente. A me la Juve per 60 minuti è piaciuta anche molto, e lo ribadisco, però poi insomma sono successe delle cose, per cui stasera sarà importante anche capire come la squadra avrà reagito a una delle sconfitte più clamorose per come è arrivata della storia recente bianconera. Leggilo domani questo: la Juve farà una gran partita, perché finalmente andrà in campo con il modulo giusto. In Europa devi giocare così, domani chiamami che ti spiego. Sergio da Bergamo, va bene Sergio, prendiamo, il numero. Prendiamo la targa, domani ti chiamo così mi spieghi. Tanto la Juventus speriamo che faccia una grande partita. 8-0-0 il discorso del modulo, comunque è un discorso abbastanza popolare, nel senso che che la difesa 3 a tanti non piace quando devi giocartela a viso aperto con gli avversari. È un discorso troppo tecnico e probabilmente tanto io non capisco niente, quindi posso dire che sono per me masturbazioni mentali abbastanza, cioè conto molto, molto di più il modo in cui approcci una partita. Poi quello dei numerini è un gioco che lascio volentieri ai bambini che giocano alla PlayStation con le magliette orrende del Barcellona quando viene a Milano. Strade. Tutti convocati. Io insomma sono un po' stufo anche di queste cose, come questo capire di calcio sembra quasi una filosofia quantistica, non lo so, capire di calcio come se fosse chissà. Il calcio è emozione, dai. Il calcio, sì, il calcio anche delle regole, ha delle regole, ha delle logiche, è molto soggettivo, nel senso che comunque sì, tutti i discorsi di calcio, tutti i discorsi sui numeri sono discorsi abbastanza. No, capire di calcio, perché c'è uno che scrive, un ascoltatore, penso che chi tifa la seconda squadra di Torino non capisca nulla di calcio, mi permetto, sentendoli da voi non si firma. Felice da Trani, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione. Ma grazie a te. Ciao Felice. Io sono tifoso juventino e non sono molto fiducioso per stasera, perché la Juve, anche quando gioca male quest'anno e ha la possibilità di chiudere le partite come domenica, non riesce a farlo. Mentre gli altri due anni aveva sempre un ritmo molto elevato, quindi anche se si sbagliavano i gol, poi alla fine si riusciva a portare a casa la partita, quest'anno la vedo molto più complicata. Questo secondo me, poi è normale che in queste partite, se uno ha le motivazioni, li diamo tutti per spacciati, poi vanno lì e magari vinciamo 2-0 come è capitato. Sì, ma poi la Champions è meravigliosa, la mia competizione preferita, proprio perché sai è il massimo dell'imprevedibilità, cioè l'humus per chi come me non capisce niente di calcio, perché alla fine ci giochiamo sopra, no? Però fare dei pronostici quando giochi essenzialmente su queste emozioni, perché in Champions League l'emozione penso che la partita singola sia molto difficilmente pronosticabile, certo. E Fiorentina-Juve dell'altro giorno lo dimostra, perché la Juve poteva andare serenamente sul 3-0, non l'ha fatto, e la Fiorentina poi ha meritatamente vinto nel finale. Quindi però se stavano 4-0 3-0 al 70esimo non c'era, prove di per non quella c'era nessuno, era una scandalo. Tappa di una corsa a tappe, appunto, no? Quindi secondo me su questo e sulla Champions è molto difficile fare pronostici. Sul campionato c'è una tendenza di 38 partite dove alcune cose le puoi vedere, insomma la forza di una squadra, la profondità, la quantità di giocatori che ha a disposizione, i ricambi, ecco, questi sono discorsi abbastanza oggettivi secondo me. Detto questo, poi il calcio è bellissimo perché appunto è una scienza assolutamente inesatta, anzi non è proprio una scienza, è una materia liquida nella quale si cambia idea da una settimana all'altra, da un quarto d'ora all'altro, come sa bene Antonio Conte in quel quarto d'ora terribile per lui di Firenze. Quindi assolutamente, come dice qui il nostro ascoltatore, è bello fare il giornalista perché puoi dire tutto il contrario di tutto e domani sarai ancora lì, speriamo, ovviamente le corna. Ci dicono anche che il Milan si è difeso 85 minuti anche con le fidanzate dei giocatori, io non ho visto, sì. Però è un tifoso del Barça censurato, è vero, cioè, nessuno, ma come diceva Filippo Galli prima, ma non è peccato, ma no, non è peccato, soprattutto non è peccato. È una dimostrazione implicita dell'inferiorità, allora, che non è solo del Milan ma è del calcio italiano rispetto a una delle squadre più incredibili al mondo, ma è anche una strategia alla fine, perché, ma non sono d'accordo che è inferiorità, perché secondo me l'Inter adesso, prima ho scherzato, però l'Inter a Barcellona, e ce lo ricordiamo tutti, in 10 ha giocato la partita perfetta contro il Barcellona, e non è una dimostrazione di inferiorità, è una dimostrazione di grande intelligenza. È stata una partita splendida dal punto di vista fisico, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista tattico, e magari bella anche per quelli che capiscono di calcio. A me è piaciuta per l'intensità, e secondo me non è una bestemmia. L'Inter ha fatto una partita meravigliosa. Non è una bestemmia, e appunto ritorniamo al concetto che poi alla fine è non è una regola esatta, non esiste il calcio assoluto, non esiste il calcio puro, non esiste il calcio di Serie A e quello di Serie B. Devi avere un'idea, devi avere un progetto, devi mettere in campo delle idee. Poi queste idee possono essere anche delle sane idee di ripartenza, di contropiede, perché non c'è niente di male. Se quello esalta le tue caratteristiche, se gli avversari sono più forti di te nel palleggio, ma tu hai la possibilità, di, allargando il campo e costruendo azioni nello spazio in velocità, di fargli del male, allora devi necessariamente seguire quella strada. Per cui sono d'accordo su questo, insomma. Poi però che dal punto di vista del palleggio una squadra come il Barcellona nel mondo non c'è stata, non c'è, ecco, questo mi sembra evidente. Sì, io però, come ti dico, non sono grandissimo tifoso del Barcellona, a me piace, allora, ma neanche io, cioè, però... mi piace più il Milan che riesce, come ho detto prima, ad imbruttire la partita, perché quella è l'unica strada possibile. E io spero che il Milan riesca, perché sarebbe interessante vederlo, a trasportare l'emotività che ha messo nella batteria ieri sera in campionato. È la cosa più difficile, nella quotidianità del campionato. Ma non è la prima e non sarà l'ultima squadra che vive questo tipo di situazione. Poi vedremo, insomma, magari adesso il Milan ricomincia. Sta anche recuperando giocatori importanti, perché comunque già il cacà di ieri sera, magari se ce l'avesse avuto in qualche recente trasferta così un po' sfigata, magari sì, riusciva a portarla a casa. Poi basta con sto parlare di uno stipendio. Spiegatemi i sacrifici economici di Kakà, come se a uno stipendio da 1000 euro togliessero 5 euro. L'abbiamo sì, detto. Però, caro ascoltatore, se tu prendi 1000 euro e te ne levano 5, ti incazzi. Io no, anche. Poi credo che le proporzioni, credo che le proporzioni siano diverse. No, io penso, appunto, come ho detto prima, che quando si usa la parola sacrificio legata ai calciatori, sì, ma non soltanto ai calciatori, anche a chiunque sta bene, bisogna avere grande rispetto per chi sta peggio. No, questo è evidente. Certamente. Però comunque lui poteva fare altre scelte, ha rinunciato a dei soldi perché voleva giocare nel Milan. Detto questo, è stato anche a Madrid, quando poteva andare via magari un paio d'anni fa e tornare a fare giocatore, si sedeva comodamente in panchina, era anche infortunato, ma ne prendeva un sacco. Questo va anche detto. Luca Pisa, buongiorno. Buongiorno, faccio in fretta, volevo fare una piccola provocazione circa i pronostici. No, provocazione Paolo no. Paolo Rossi, Vialli, Panucci, addirittura Panucci stava 4-1 per il Barcellona, il Napoli perdente su tutta la linea, dico solo Caressa che faceva un pareggio per il Milan, una sconfitta per il Napoli, ma cosa hanno guardato, cosa hanno giocato durante la loro carriera calcistica, questi grandi calciatori? Cioè, dico, un minimo di positività, un minimo di sempre sti tipici italiani che ci piangiamo addosso perché siamo peggio degli altri. Invece ieri sera siamo stati smentiti, io contento, sono tifoso della Fiorentina, quindi vado 3 metri sopra il cielo, certo, ma questa è la dimostrazione della bellezza del calcio al di là delle masturbazioni sì, mentali dei numerini, sì, no? Sì. Allora... Se sbagliano loro, possiamo sbagliare anche noi senza troppi problemi. È la dimostrazione della bellezza del calcio. Hai ragione, Luca. Tu dici, se questi mostri sacri sbagliano il pronostico, perché non dobbiamo sbagliare io e Pardo? Non ho capito. O no? Sì, certo. poi ma magari... quindi stasera la Juventus che fa? Ma adesso dimmelo tu, poi domani ti facciamo risentire. Stasera vince 1-0. Vince 1-0. Non ci credo neanche se la vedo. Ci gioco 50 euro sulla volta di Firenze. Non farlo perché c'è un esempio di Ettore che ha dichiarato la scommessa, ha giocato e ha perso. Quindi se fallo, ma non dichiararlo. No, chi ti sta cercando? Anzi, io volevo portarlo sulla buona strada e dirgli di ristorgare quei soldi. Questa è bella, sì, vai. Se il gioco fosse solo quello di chi attacca, Mats Wilander non avrebbe mai vinto una partita. Non capisco di calcio e poco di tennis. Grande Marco D'Alecco. Insomma, interessante. Sono giochi un po' diversi, però sì. Esistono le due fasi, assolutamente, ma anche nel basket esistono le due fasi, assolutamente non si può pensare di poter attaccare e basta. Sì, basket, pallavolo sono sport, permettimi, più matematici, quindi è anche un po' più facile, chi gioca meglio vince, è molto più facile individuare chi è favorito e chi no. La meraviglia del calcio è questa impronosticabilità. Tutti gli sport che hanno un punteggio basso, il calcio su tutti, sono legati a un minor numero di episodi, essendo meno gli episodi sono più importanti, scusa il concetto cervellotico, però cioè, nel basket tiri, fai 80 azioni a partita tu, ne fa 80 l'avversario e grosso modo poi chi ha avuto la percentuale migliore vince la partita, grosso modo. Quindi c'è una ripetizione continua di situazioni. Certo. Nel calcio tu puoi, nella partita singola, anche soffrire per 80 minuti, trovare un contropiede fatto bene e vincere la partita, proprio perché è uno sport che si basa su uno o pochi episodi. Va bene, dopo sentiamo questo GR, pistolotto vergognoso del quale adesso vado a dimettere. Facciamo, chiediamo il GR, dopo questa volta vado a dimettere. GR, 8-0-0-24-0-0-24. E poi traffico e borsa. No, aspetta, dopo, adesso il GR. traffico. Cuore, denari, essere benessere, traffico, traffico. Tutti convocati. Bellissimo messaggio di Mauro, migliore in campo tra i messaggisti. 349-238-6666. Ma chi sceglie le maglie del Barça? Un infiltrato del Real Madrid? Ecco, invece io volevo rispondere a un po' di cestisti che mi dicono: nel basket puoi soffrire per 39 minuti 59 sì. secondi e 57 centesimi e poi vincere di uno con un tiro impossibile. Sì, però deve essere una partita equilibrata, beh, certo. Cioè deve essere una partita dove sei punto a punto, ecco. Sì. Matteo Caccia, ciao. Grande Matteo Caccia, clamoroso. Noi siamo qui, Matteo. Noi siamo qui. Vieni dentro a parlarci di Inter. Credo sia interista Caccia, credo. Sai che ci mandano via dopo, no? Come ci mandano via? Sì, dopo. Allora, Cruciani è venuto a lanciare il traffico. Adesso Matteo Caccia, che è un nostro. Questa è una visione cooperativa di radio. Io sento fin dalla mattina. No, passando il mercoledì sera a casa a fare nulla. Ecco. Il martedì e mercoledì. Cioè, già hai questo tono letterario. Vai sono prontissimo. Sono prontissimo per qualsiasi vostra domanda. Facci un. Io sono qui sul Milan Barcellona ieri sera. No, però col tono letterario. Un assegno invece, perché ho detto che la partita dell'Inter a Barcellona è stato un capolavoro assoluto e memorabile per sempre, everywhere. Quello che diceva Mourinho: loro vogliono tenere palla, io lascio palla. Perché? Loro vogliono tenere la palla, io gliela lascio, io faccio altro. Un pezzo su ieri sera, un pezzo semplice su ieri sera era un giocatore che davano per morto. È tornato, ha fatto un assist e San Siro l'ha ringraziato alzandosi in piedi. Va bene, andava molto bene, puoi fare anche meglio. Fra l'altro ci dicono che per il Milan il campionato è la moglie e la Champions l'amante. Questa è buona. Ce lo dice Marco Laferrara, non è questa male, è abbastanza letterario. Sì. Vi saluto. Va bene, ciao. Ciao, a dopo, Incredibile. Allora. No, fate un po' come tutti, come vi pare, tanto qua liberi tutti, avanti il prossimo. Allora. GG Telesforo, pronto, ecco. Allora, domenica c'è la sfida Caserta contro Milano, quante possibilità di vincere Caserta? Raffaella 17 anni della provincia di Caserta. Vuoi non rispondere a Raffaella? Tante. Secondo me tante. Dica, sì. Immagina poi il 18enne Cristiano Ronaldo che sceglie la Juventus invece del Manchester United e cambia la storia. Sì, anche se poi in realtà per quelli che sono gli standard del calcio di oggi è drammaticamente vero che poi i budget sono decisivi, per cui faccio un esempio: Pogba, che è un giocatore che ha scelto la Juve, e sappiamo che ci sarà già quella frase di... che ridi? Cioè, questa sarà quella frase di Agnelli, che è una frase di grandissimo buonsenso, nel senso che poi se arriva qualcuno con 50-60 milioni tu per sai come gode Mino Raiola, mamma mia. Vabbè, però è un dato di fatto, insomma, questo, cioè le storie romantiche nel calcio di oggi sono poche, Pogba sposterà Balotelli io non credo che sposterà Pogba, penso Pogba rimarrà alla Juve ancora per almeno 2-3 anni assolutamente, però quello che dico è che oggi c'è un discorso di dimensioni, sì. Per cui le scelte alla Di Natale, tanto per fare un esempio di uno che ha rifiutato la Juve e il Milan, le scelte alla Gigi Riva, le scelte alla Francesco Totti sono abbastanza rare, ecco, soltanto questo, sì, alla cacà. Comunque resta il fatto che Mino Raiola è un mio idolo con Maradona, con Mourinho e con tutti questi. Perché? Io adesso poi faccio la galleria, là fuori attacco tutte queste foto all'armadio. Senti, facciamo la schedina di Champions. Manchester United, Real Sociedad 3-1. Bayer Leverkusen, Shakhtar. Gol, cioè segnano tutte e due, secondo me è un pareggio con gol. Galatasaray Copenaghen non quotata, vince meno facile di quello, però vince Galatasaray. Real Juve, ne abbiamo già parlato anche troppo. 1-2. 3-1. Benfica Olympiacos. Benfica Olympiacos vince il Benfica. Paris Saint-Germain a spasso sul campo dell'Anderlecht, sì. CSKA Mosca, lo dico alla russa, Manchester City. Come tutti quelli che fanno il basket. Quelli che fanno il basket dicono CSKA, quelli che fanno il calcio dicono CSKA. Come fossero due squadre diverse. Per me vince il City di misura, tipo 0-1. Bayern, Victoria Pilsen 5-1. Va bene, come avete visto abbiamo solo certezze, cioè non siamo neanche minimamente dubbio. Contaminati dal concetto di dubbio. Ho visto prima Guardiola in conferenza stampa cercare di arrampicarsi sui vetri per spiegare che questa partita per il suo Bayern di Monaco poteva avere, insomma, presentare qualche problema. No. Filippo da Roma. Sì. Filippo, allora, io da Roma. Un pronostico sulla partita di questa sera. Grande. Del Madrid e Juve. Sì. E non penso che la Juve vada lì a vincere, ma manco a pareggiare. Però volevo sottolineare una cosa. Va a prenderne un. Il Milan, nonostante il sia in campionato, in Champions riesce ad andare bene. Il Napoli, venuto fuori dal nulla. due anni fa ci ha impressionato con Mazzarri, adesso si sta confermando. È la grande Juve che sì, farei dei distinguo sempre, vince dappertutto, bracciale di qua di là. In Champions League poi beh, in Champions League l'anno scorso non era neanche andata male. Beh, farei dei distinguo. Allora, stiamo facendo dei discorsi che abbracciano 3, 4, 5 mila anni. Insomma, la Juve, il Milan quest'anno, onestamente, al di là dei nomi e delle grandi suggestioni, è in un girone semplice e sta facendo bene, ma per tradizione. La Juventus è in un girone in cui si è complicata la vita, esattamente come ha fatto l'anno scorso, quando poi ha fatto strada. Quest'anno peggio perché sì. Con tutto rispetto, insomma, Galatasaray e Copenaghen non sono come Shakhtar e Chelsea, con le quali aveva pareggiato le prime due l'anno scorso. Sì. Cioè l'anno scorso la Juve aveva due punti, ma stava per giocare col Nordjylland. Sì. Le mancava come ultima partita del Nordjylland. Quest'anno le manca Nordjylland e Copenaghen più o meno siamo lì. Il Galatasaray è museo delle cere. Sì, ma col Nordjylland doveva giocarci la terza giornata. Cioè sì, aveva fatto due pareggi e tra l'altro pareggiò anche col Nordjylland. E poi Napoli insomma, due anni fa ci ha emozionato, giusto perché questa parola oggi torna molto di moda. Quest'anno è in un girone meraviglioso, secondo me, in un girone in cui tutto è in discussione, in un girone in cui sta di nuovo facendo bene, al di là Mazzarri. Napoli, per quello che sta facendo, al momento merita la qualificazione, solo che è in un girone complicatissimo di ferro come quello di due anni fa, e quindi è ancora molto lunga. Insomma, nonostante l'impresa col Dortmund e la vittoria bella solida di ieri sera, è ancora 50-50 la qualificazione per il Napoli. C'è poco da scherzare. Andiamo da Marco da Roma. Marco. Ciao, buonasera a tutti e due. Due spunti rapidi su due argomenti che avete trattato. Il primo, Kakà, ho sentito che qualcuno prima usava. Sono tifoso della Roma, quindi sono assolutamente avulso da Kakà. Si è ridotto lo stipendio e non solo, si è fatto male e non ha percepito lo stipendio fino a. Quindi questo per me è un segnale incredibile. Non so se vi risulta che sia successo nel campionato italiano una cosa del genere prima. L'altra cosa, l'altra cosa importante era per quanto riguarda, vogliamo spendere un secondo per i palloni che vengono utilizzati, perché altrimenti Buffon risulta un pirla e Pirlo risulta uno che tira le punizioni, le maledette fenomenali. Secondo me questi palloni stanno mortificando questi portieri e poi ci risultano diventare improvvisamente incapaci. Sì, questo però è un discorso risalente nel tempo, no? Sì, poi vale per tutti, quindi non vale soltanto ovviamente per Buffon e per Pirlo, però è vero che ci sono dei palloni adesso molto più elastici che sono finalizzati a aumentare il numero di gol, il numero delle occasioni, quindi da questo punto di vista tutto va nella strada della spettacolarizzazione. Sai, nel 1978 mi sono fatto regalare per Natale il Tango, ti ricordi il pallone che ed è stato il primo pallone, vuoi per la grafia, il primo pallone su cui si è cominciato a discutere, ma guarda che traiettoria ha questo pallone, insomma, siamo al 78, anche che non se siamo il Super 2013. Santos, devo dirti la verità, come pallone, il peggiore era il Super Tele, che era una cosa veramente, volava, dovevi cercare di con il Super Santos, era straordinario, vedo qua che anche dietro il vetro si commuovono per il Super Santos, gran pallone, tanto ormai non lo producono più, per cui non faccio pubblicità, che succede? Mi fa gestaccia la regia. No, ma lui piace un po' così provocare, io Mino lo conosco da tanti anni, non preoccupiamoci perché lui provoca un po', fa che Balotelli c'è 4 anni di contratto, quindi vedremo. Era nello spogliatoio del Barcellona però. Come? Era nello spogliatoio del Barcellona Balotelli, è stato un quarto d'ora. Non lo sapevo, vabbè, ma facciamo uno scambio, loro hanno due punte mica male, insomma, sia brasiliano che l'argentino. Non male ieri sera, non male. No. Tra l'altro complimenti ai ragazzi, hanno fatto il 18% di share. È vero che era tardi, però insomma, voglio dire, evidentemente il calcio piace ancora. Sì. Romeo Papini nel Carpi lo scorso anno si bloccò lo stipendio per tutto il tempo dell'infortunio e questo ce lo segnalano, immaginiamo che sia vero. Un bacio a Raffaella che si è emozionata, non devi farlo. E poi il grande Matteo Caccia, ci dicono che ieri sera era al bar, insomma, vabbè, evidentemente un gran caccia quello che avete sentito prima imitare Mourinho. Sì, comunque questo discorso di Balotelli, di Gagliani, Balotelli, scusate, del numero 45 di Mino Raiola, di Gagliani, io non credo che Raiola, che confermo è un mio idolo assoluto, voglia fare un dispetto al Milan, probabilmente avrà voluto lanciare un messaggio, non so a quale fine. Io però credo anche una cosa, onestamente, che con tutta la forza di Balotelli, che è un giocatore pazzesco, io credo che anche il Milan si debba un po' interrogare e si stia interrogando sul tipo di contributo che potrà dare in tutta la stagione Balotelli. Cioè, se il calcio italiano per Raiola è sotto esame, io credo che anche Balotelli sia sotto esame per il Milan in questo momento. Cioè, io non credo, sono arrivati dei segnali di insofferenza da parte di Allegri, alcune dichiarazioni, conferenze stampa da parte della società, il fatto che non sia stato fatto ricorso dopo la squalifica. Insomma, credo che sia un rapporto quello che deve decollare, che non è ancora decollato del tutto. È probabilmente questo che era voluto sottolineare in questo messaggio trasversale, cioè occhio, trattatevi bene al ragazzo perché lui comunque è una risorsa del Milan. Sì. C'è chi, Piantanida ricorda giustamente, Damiano Tommasi a 1500 euro al mese. Ci sono degli esempi del passato e qui è sempre, bisogna essere sempre molto attenti appunto quando si pronuncia la parola sacrificio, perché i sacrifici veri sono quelli che fanno tante persone tutti i giorni della loro vita, però ci sono delle storie di calcio che comunque hanno questa componente di romanticismo, di sacrificio, di non strettamente commerciale. Quando questo succede, secondo me deve essere sottolineato. Allora, domani chi chiamiamo? Chi convochiamo domani? Vabbè, adesso ci pensiamo. Adesso prima di tutto dobbiamo cambiare la gomma, perché in tutto questo è stato un momento fantoziano. Che, ecco, praticamente io sono passato a prendere gente e ho distrutto una gomma. Comunque tutto a posto. Gli adesso casa, vado giù e gliela cambio. È solo sgonfia. Adesso Genta, che diciamo è l'uomo della famiglia, io mi occupo di arte e letteratura. Genta mi sostituisce la gomma, poi gli do 10 euro. Grandissimo, Pier. Genta! Pier. Grazie. Pierluigi Pardo, grazie. Andiamo a casa così, c'è qualche ascoltatore rompicoglioni che è contento. No. Massimo. Che dai, dice? Ma no. Sono dei rompicoglioni. Ma perché? Ma perché certe volte sì, ma dai. Ah. Ma fate i bravi, adesso andiamo via, verranno tutti gli altri che sono molto più bravi di noi e poi torneremo al passato e faremo un tuffo nella storia e poi mandiamo, non so. Invece ciao, scrivete 3-1 commenti. Real Madrid 3, Juventus 1, vi aspettiamo Real qui domani. 1, Juventus 2, me la so cercata, Sì. Cambiamo la gomma, grazie. Adesso Telesforo, Piantanida. Autore di questo programma, Capitan Fabio Cantadore in regia. Ciao, a domani.